Giulia. Cara, ti prego salvami tu, tu che sei l'unica, mio amore, non lasciarmi da sola in questa notte gelida, per favore, non vedi dentro i miei occhi la tristezza che mi fulmina, non scherzare, sto in mare aperto e mi perdo e tu sei la mia ancora, ti prego sali in mare. Quel che vuoi, ma dammi il tuo amore.